gli speciali di Radio 24. Le 27 minuti, una buona serata ad Anna Rita D'Ambrosio, un grazie soprattutto in redazione ad Anna Marino ed Anna Migliorati, in regia Paolo Corleoni, insieme fino alle 20.30 per parlare delle primarie del Partito Democratico, quando i seggi si sono chiusi esattamente da 7 minuti. Io ho anche un ospite in studio, abbiamo poi i nostri inviati per tutte le reazioni. Vi presento soprattutto il nostro ospite, che ringrazio per essere qui, il sociologo Paolo Natale dell'Università degli Studi di Milano. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, possiamo commentare già subito questo dato dell'affluenza: oltre 1.500.000 alle 17, con i seggi che si sono chiusi e con le code che sono ancora segnalate in alcuni gazebo. Dunque è andata forse meglio del previsto? Sì, meglio del previsto, ovviamente molto meno di quello che accadeva nelle precedenti occasioni, però insomma la stima più prudenziale era almeno 1.400.000, 1.500.000, cioè la metà di quello che era successo nel 2013 quando vinse Renzi. In questo caso invece sembra che già, diciamo, questa asticella di 1.500.000 sia stata superata brillantemente alle 17, quindi probabilmente arriveremo su 1.800.000, una cosa del genere, insomma, un poco sotto i 2 milioni. Anche oggi a seggi aperti, per esempio Sala a Milano, ha detto sì, però le primarie vanno ripensate. Ma come andrebbero ripensate le primarie? Lei le studia da un po', sì, insomma. Sì. Sì, tra l'altro adesso uscirà appunto un libro proprio sulla storia del PD che si chiama L'ultimo partito, uscirà fra breve, insomma, in qualche settimana. Che affronta ovviamente il tema delle primarie, anche perché insomma il tema PD resta ancora l'unico. Esatto, l'ultimo e unico forse in Italia. Certo, sì, beh, strumento. Poi c'è i 5 Stelle che usano delle primarie un po' particolari, insomma, quelle via web, che insomma non attraggono poi questi milioni di persone, ma soltanto poche migliaia quando va bene. Quindi di fatto rimangono uno stimolo forte e soprattutto rimangono l'idea che comunque le cariche, sia all'interno del partito che poi le candidature, siano in qualche modo appannaggio dei propri elettori, cioè non sono una buona dose di partecipazione che mi sembra importante per la salute della democrazia. Poi certo qualcuno andrà meglio, qualcuno andrà peggio, o a volte, come è capitato in Francia, magari le primarie poi non danno, diciamo, il candidato che esce dalle primarie non risulta poi candidato preferito, ma questo è ovvio, insomma. I vince uno solo e quindi certo, non possono vincere. I dubbi della vigilia era la scarsa partecipazione, non solo per il ponte, diciamo, prima ricadute nel bel mezzo di un ponte, ma anche il fatto di una vittoria un po' scontata di Renzi, anche perché Emiliano poi più volte ha parlato come minoranza, mentre Orlando ha fatto capire addirittura di la vittoria, che ce la poteva fare. Insomma, gli exit poll ancora non ci sono, però se stiamo a guardare il voto, quello dei circoli, dovrebbe essere un nuovo inizio per Renzi, insomma. Direi di sì, è vero quello che diceva prima, cioè questa grande affluenza, diciamo un po' sopra il previsto, è abbastanza strana da un certo punto di vista, perché non c'è più il grande afflato renziano di 4 anni fa, quando si presentò come l'inedito uomo politico capace di ribaltare il mondo, così come diceva lui, e quindi in questa seconda tranche della sua segretariato, per così dire, molto probabile, è un po' come se fosse, adesso dico una parola brutta, ma è un po' come se fosse una minestra riscaldata da un certo punto di vista, cioè l'elettorato sia del PD che anche quello esterno al PD, che in qualche momento aveva creduto anche lui e Renzi, insomma, in una buona fascia di elettorato, ha capito che lui non ce la fa adesso, per colpa sua o meno, adesso importa poco dire, ma comunque in questo modo non ce la fa, e soprattutto non ce la farà, visto che la legge elettorale col ballottaggio, che era l'unica possibilità per una forza politica di governare realmente, non è passata grazie alla Consulta e poi alla sconfitta del referendum costituzionale. C'è una cosa curiosa: i sondaggisti avevano previsto una forbice tra 1.500.000 e 1.800.000, hanno avuto ragione, insomma, sì, tante polemiche sui sondaggi preliminari. Stanno andando un po' bene, abbiamo visto anche in Francia, sono andati meravigliosamente i sondaggi. Quindi insomma questo è un elemento positivo. Io vorrei farvi sentire però questi italiani che sono stati in coda a votare. Partirei da Roma e poi mi collegherei con Alessandra Schepisi, che è al Nazareno. Ascoltiamo le voci di chi ha votato a Roma. 23 anni, per avere un partito di sinistra che possa avere dei numeri tali da farsi sentire. di tutta la storia, del PC, del PDL, tutta l'ho fatta. Il cuore sta lì, il cuore c'è attaccato al cervello, non l'abbiamo staccato noi, capito? Però come sta andando? Beh, l'affluenza è buona, molto buona a quanto sta. E penso che sia anche un dato positivo in generale per la politica, anche per... in generale per il centro-sinistra. Ho sempre partecipato come scrutatore, adesso come presidente. Come sta andando? Come è andata? Bene, un'affluenza buona, positiva, va molto bene. Superiore o inferiore agli anni, agli altri primarie? Inferiore, un po' inferiore, però rispetto a quello che pensavamo insomma inferiore di poco. Le voci raccolte dalla nostra Teresa Trillò, che poi ha trovato anche un ospite particolare, poi ve lo facciamo ascoltare, perché in un seggio ha incontrato Paolo Virzì, che dice delle cose anche molto interessanti e carine. Alessandra Schepisi dal Nazareno. Buonasera Alessandra. Buonasera a te Anna Rita. Allora, clima, umori? Allora, io mi trovo qui alla sede del PD, dove è stata allestita la sala stampa per seguire un po' tutte le operazioni di voto, e un palco è già stato montato nella bellissima terrazza che dà sui tetti di Roma. Bene, da questo palco intorno alle 23 parlerà il vincitore di queste primarie. Accanto ai microfoni campeggiano le bandiere italiane, europee, anche la bandiera del PD, e c'è tantissima attesa, ci sono tante telecamere, giornalisti. Per il nome ovviamente bisognerà attendere, ci dicono non verrà annunciato prima delle 21 o delle 22, ma insomma c'è un clima di grande soddisfazione per il dato sull'affluenza. E proprio pochi minuti fa ha parlato il vice segretario del PD Guerini, ha parlato di bellissima festa della democrazia, ha invitato anche gli altri partiti a fare le primarie, poi ha confermato che ci sono tante code al gazebo, che dunque ancora si sta votando. Quindi insomma, per quanto riguarda questo dato sull'affluenza c'è soddisfazione. Ricordiamo che questo era uno dei temi più dibattuti di questa campagna elettorale, un numero che darà anche la dimensione dell'investitura del futuro segretario e dei rapporti all'interno del PD. Si potrebbe raggiungere la cifra dei 2 milioni, si dice, un dato inferiore all'ultima tornata, ma comunque al di sopra delle aspettative, tant'è che ricordiamo lo stesso Renzi aveva messo le mani avanti parlando di risultato soddisfacente al di sopra del milione, mentre Orlando e Milano avevano considerato un successo 2 milioni. E dunque per il PD una grande prova di democrazia, contrapposta alla democrazia dei click dei 5 Stelle. Grillo, diciamo, c'è questa nota polemica, intervenuto poco fa definendo la visione dei Dem antistorica, antitecnologica e orientata al passato. E dunque per ora qui si attende, come dicevo, i dati sul vincitore non arriveranno a breve, ci sarà probabilmente una dichiarazione dopo le 21 di Roberto Montanari, presidente della commissione congresso del PD, a dare i primi dati ufficiali, e poi potrebbe riparlare il vice segretario Guerini. Insomma, è alle 23 il vincitore salirà sul palco. E poi noi ovviamente seguiremo tutta la serata quello che accadrà. Al 349-238-6666 ci ha scritto un ascoltatore. Ha detto ok il dato sull'affluenza, ma sarebbe interessante sapere quanti iscritti hanno votato. Paolo Natale, un po' quello anche il tema del quale si è tanto dibattuto, cioè le nostre primarie sono aperte, le nostre italiane intendo, sono aperte un po' a tutti, quindi sarebbe interessante insomma capire se sono stati più iscritti al partito, certo, o più di altri partiti anche. Però lei, che appunto sta conducendo uno studio, ha qualche dato, no? Sì, sì, no, gli iscritti al partito hanno votato nei circoli e sono votati in circa 250.000 su 450.000, quindi probabilmente saranno andati a votare circa 300.000 iscritti. Adesso dico una cosa un po' a naso, perché ovviamente non è chiaro, non si chiede quando si vota se uno è iscritto o no, per cui in realtà gli iscritti valgono a questo punto circa un sesto di quelli che sono andati a votare. E questo è un altro dato abbastanza positivo, perché c'è anche il dibattito tra primarie aperte e primarie chiuse, in cui si dice le primarie aperte in realtà poi perché dare in mano ai generici elettori la facoltà di decidere il proprio candidato del partito oppure il segretario, e non lasciarla solo agli iscritti. Probabilmente l'idea, che era poi quella di Veltroni inizialmente nel 2007, dopo la vittoria di Prodi, vi ricordate, alle primarie per le politiche, Veltroni decise un po', insomma, il gruppo dirigente dell'epoca, di fare un partito cosiddetto leggero. Cioè, il partito leggero significa che le decisioni importanti, come in questo caso, non sono affidate soltanto ai vertici del partito, ma devono riguardare anche la base, quindi una partecipazione, diciamo, molto di massa in questo caso, anche se poi non sono tutti gli elettori che vanno, ma comunque una, diciamo, una quota di elettori molto importante, e quindi in questo caso diventa una democrazia un pochino più partecipativa, ecco, in questa crisi un po' di democrazia forse questo è un piccolo toccasana. Certo. Allora, la nostra Raffaella Calandra a Milano è andata anche lei in giro per gazebo, circoli dove si è votato, ed è molto interessante perché lei è andata anche al CAM di Corso Garibaldi, dove hanno votato anche i fuorisede. Allora, ascoltiamo prima le voci che ci ha inviato e poi parliamo con lei. Non sono convinto della utilità, comunque sono venuto a votare. Secondo me il modo di esprimere le differenze che è sbagliato. Abbiamo girato un'ora per poter trovare il posto. Finalmente, dopo tre tentativi, i poliziotti ci hanno detto dove venire. Proprio profondamente convinti dell'importanza del voto. L'importanza del voto, abbiamo votato come facciamo sempre perché è un dovere civico. Sì, per Matteo Renzi. Sì, sì, convintissima. Come mai? Perché è l'unico che sta cercando di fare qualche cosa di diverso. La sinistra è stato sempre, diciamo, un partito che ha avuto sempre discussioni. Proprio per questo la destra è sempre venuta avanti. Perché Andrea, per chi ha votato? Renzi, perché mi piace. C'è stato comunque un po' un calo di partecipanti. Sì, penso che siano anche in questo weekend un po' lungo. Anche. Le dirò che a Orlando Bavaglia piaceva anche. Ecco. Io voglio vedere l'altro come in quel partito lì cosa sta dentro a fare. Le piace il seggio in una libreria? Ma meraviglioso, non è più nuovo, più moderno, più simpatico. Raffaella Calandra ha raccolto dunque queste voci ed è in collegamento con noi. Buonasera Raffaella. Ciao Marita, buonasera a te e ai nostri ascoltatori. Io sono in questo momento, ho girato vari seggi proprio all'interno del seggio CAM di Corso Garibaldi, uno dei due dove, come ricordavi, hanno potuto votare anche i fuorisede. In questo momento intorno a due tavoli è stata appena aperta l'urna e si sta cominciando lo spoglio, quindi l'affluenza in questo seggio, che è nel pieno centro di Milano, è stato alta. Non abbiamo ancora il dato complessivo, però non ci siamo mai fermati, mi hanno raccontato gli scrutatori, e infatti questa mattina ci sono state delle lunghe code qui, come anche negli altri circoli dove sono stata. Alcune voci erano anche dal Verziere, nel pieno centro, dall'altra parte di Milano, dove nel 2013 Renzi aveva avuto la sua affermazione più forte. Qui invece, in Corso Garibaldi, molto interessanti sono i post-it che molti elettori hanno lasciato in una bacheca, a cominciare anche dal sindaco, che ha scritto: valorizziamo la presenza nelle città. Ma ebbene, guardando quello che i direttori hanno scritto, chiedono soprattutto alleanza con Pisapia, più dialogo con Pisapia, il nome dell'ex sindaco ritorna in tanti messaggi, più unità, guardare verso il futuro, e a Renzi un messaggio: non fare l'arrogante, pensa al paese. Anche quindi un po' lo yum, la pancia, il pensiero, le opinioni dei milanesi che sono venuti a votare, anche in una percentuale abbastanza alta. Alle 17 erano infatti 63.000, non conosciamo ancora il dato finale, ma comunque una partecipazione che, rispetto anche ad altre città dove invece si è segnato un calo, anche in città tradizionalmente ad alta affluenza come quelle emiliane, invece qui a Milano sembrano essere soddisfatti della partecipazione. Annarita. Grazie alla nostra Raffaella Calandra, con la quale evidentemente torneremo a collegarci, perché poi sarà ancora una lunga notte. Ci sono due novità. Renzi, che ha fatto sapere: comunque vada, grazie, mi avete dato coraggio, forse scaramantico. E poi c'è un piccolo seggio in un comune siciliano, a Castronovo di Sicilia per la precisione, in provincia di Palermo, poco più di 3.000 abitanti. Hanno già terminato lo spoglio, anche perché probabilmente saranno andati a votare in pochi. Ha vinto Renzi con 71 voti, il 74%, seguito da Emiliano e Orlando. Insomma, staremo poi a vedere a grandi livelli come andrà. Abbiamo tanto parlato delle... Sì, no, prego. Posso dire una cosa su Milano, perché sta subendo, oppure sta creando qualcosa di abbastanza inedito per il capoluogo lombardo. Cioè, il modello sala sembra che stia funzionando, per cui l'idea, anche come avete sentito, di molti elettori delle primarie primarie del PD che in qualche modo suggeriscono di riprendere proprio questo modello, e effettivamente a Milano sono andati a votare addirittura molti di più delle primarie per il sindaco, e più o meno allo stesso livello delle ultime primarie di Renzi, quindi sembra una città che è stata da questo punto di vista positivamente, dal punto di vista ovviamente certo, del centro-sinistra, come dire, trapassata da questo stile di Sala, da questo modello Sala, che appunto facendo alleanze tendenzialmente all'interno della sua area di riferimento più qualche piccolo appoggio esterno, in realtà potrebbe in qualche modo indicare la strada anche per un'ipotesi di governo nazionale. Staremo a vedere. Io ringrazio, è in collegamento con noi la collega del Sole 24 Ore Emilia Patta. Buonasera Emilia. Buonasera. Allora Emilia, siamo ovviamente ancora al dato sull'affluenza, abbiamo visto c'è solo Renzi che scaramanticamente dice comunque vada, grazie. Che cosa possiamo dire fino a questo momento? Innanzitutto un dato forse superiore alle attese? Sì, senz'altro, il flop dell'affluenza sembra essere scongiurato, perché 2 milioni, intorno ai 2 milioni dicono da Largo del Nazareno sono ottimisti di poterlo superare quando insomma saranno ufficializzati i dati fra un paio d'ore, ed è una soglia psicologica importante. Si parlava di 1 milione di votanti, 1,5 milioni lo davano quasi tutti i sondaggisti come dato dell'affluenza, quindi diciamo che Renzi può essere contento, è che è un buon dato, non c'è da strapparsi i capelli, ma è un buon dato, che significa che comunque il popolo del PD è ancora abbastanza vitale, ecco. È un dato inferiore a quello di 4 anni fa, ma le condizioni politiche sono evidentemente diverse. Era una riconferma del segretario uscente con un esito abbastanza scontato, che non ha richiamato molti ai gazebo. Quindi, insomma, comunque. Emilia, Renzi aspettava questo risultato per ripartire. Adesso dobbiamo vedere quello che succede adesso, ecco, penso rispetto al governo in carica, no? Infatti, sì, questo è lui aspettava. È stato 4 mesi un po' in apnea per il carattere che ha, quasi non si è sentito rispetto al suo solito. Chiaramente con questa riconferma, soprattutto se il voto in percentuale sarà buono per lui, intorno al 70%, potrà agire con una, insomma, una legittimazione popolare piuttosto forte. E lui ha già detto, insomma, nelle conversazioni di questi giorni, più o meno ufficiali, che comincerà a girare il paese per far conoscere il programma elettorale per la prossima legislatura. Già questo dice molto, no? Delle sue intenzioni, che prima si va a votare meglio è. E poi dice che aiuterà il governo a risolvere bene le questioni dal suo punto di vista, insomma farà sentire la sua voce, a cominciare dall'Italia. Ha detto che fra un 15 giorni farà una proposta per rilanciare la compagnia, insomma per non liquidarla. E soprattutto la legge di stabilità, la legge di bilancio che ci sarà in autunno, lì sarà un problema, insomma, perché Renzi vorrà mantenere il punto sul no all'innalzamento delle tasse e vorrà introdurre qualche misura che abbia un buon sapore elettorale, visto che poi si andrà a votare dopo poche settimane. Quindi c'è da aspettarci un settimane di fibrillazione, ecco, con il governo, non tanto con Gentiloni, che almeno in questa fase ha un'opera di fa un'opera più di mediazione, no? Tra il partito e Padoan, appunto, quanto soprattutto con lo stesso Padoan, con i ministri che lui, che Renzi considera più tecnici, insomma, Padoan e Calenda. Soprattutto, certo. Sarà grazie. Una cosa che può anche un po' destabilizzare, ecco, il segretario deve avere anche la maturità di o decidere, appunto, spingere chiaramente per le elezioni anticipate, anche se non si vede bene come sia possibile a ottobre, ma insomma almeno una posizione chiara, oppure fare da stimolo in modo, insomma, responsabile, ecco, altrimenti le fibrillazioni poi alla fine ricadono. Dovrebbero essere sane queste fibrillazioni, sane, insomma. Sì, perché poi fanno male anche al PD, ecco, al certo, in sede elettorale, quindi bisogna stare molto attenti. Grazie ad Emilia Patta del Sole 24 Ore. Io prima di ritornare, perché poi chiudo anche con il nostro ospite in studio per un'ultima dichiarazione conclusiva, volevo farvi sentire, perché abbiamo detto Teresa Trillò è andata in giro e tra i tanti votanti ha trovato Paolo Virzì. L'intervista è molto gustosa, sentiamola. Con la figliola ho visto che non c'era un'anima, mi sono avvicinato per un senso di tenerezza e dico, e invece mi hanno detto che c'era tantissima gente fino a poco fa e che adesso è semplicemente una controra. Ma lei ha votato? Guardi, sì, ho messo la scheda dentro ma non ho espresso una preferenza, nel senso che sono curioso di vedere cosa dice quello che veramente il popolo del Partito Democratico. Io mi sento più un osservatore esterno. Quindi scheda bianca? Scheda bianca. Bianchissima. Scheda bianca, credo il risultato sia scontato, non conta quello, conta... Siccome mi piace che ci sia l'idea che i partiti politici, le associazioni, insomma, si verifichino con i cittadini, ed è l'unico partito che lo fa, mi tocca votare questo. Se ce ne fossero anche altri, magari prenderei in considerazione un'alternativa. Ma sta pensando magari anche ad un film sulle primarie o su qualcosa del PD? Sulle primarie, che tristezza, non ci viene nessuno. È davvero carina questa, perché finisce con questa risata di Virzì che dice: il film sulle primarie non ci viene nessuno. Ma è vero, Paolo Natale, non ci viene nessuno? Ma no, adesso Virzì è capace. Beh, di con fare, questi numeri, dai. Poi è capace di fare delle cose che attirano la gente. No, voglio dire l'ultima cosa un po' sul problema di cui parlavate prima delle prossime elezioni. È ovvio che magari tutti adesso vogliono andare al voto, però sappiate insomma tutti che con queste leggi elettorali che ci sono, o se non vengono modificate radicalmente, non ci sarà nessuna possibilità di governo, per cui anche se vincono i 5 Stelle, come probabilmente vinceranno, cioè saranno il primo movimento, la prima forza politica, in realtà da soli non possono andare da nessuna parte, diventerà come la Spagna, continuano a votare ogni anno fino a che alla fine si mettono insieme. Speriamo di no, però insomma la questione mi pare di capire è proprio tutta lì. Grazie al sociologo. Grazie Paolo Natale, che è stato qui in studio con noi. Un ultimo giro prima da Raffaella Calandra. Raffaella. Annalisa, qui stanno ancora terminando lo spoglio delle schede, c'è un'alternanza di Renzi e Orlando, soprattutto nello spoglio, una prevalenza di Renzi direi, e c'è stato anche qualche voto per Emiliano. In questo momento è arrivato anche il segretario cittadino di Milano, a cui volevamo chiedere anche un commento sull'affluenza, se abbiamo 30 secondi, Rita. Sì, sì. Allora, segretario, un'affluenza a Milano per Radio 24 che sembra aver tenuto rispetto anche alle altre città, siete soddisfatti? Sì, un'affluenza che va oltre le attese, che ci rende molto soddisfatti, perché le preoccupazioni alla vigilia c'erano, erano su tutti i giornali, mentre invece decine di migliaia di milanesi e di italiani hanno deciso di dare forza al progetto riformista del Partito Democratico. Nei messaggi si chiede più unità, il modello italiano, dicevamo anche in studio, può essere un modello nazionale? È la strada che dobbiamo percorrere, quella dell'unità e del raccordo con i territori. Io credo che chiunque vinca questa sera, adesso vedremo i dati, qua voglio sembra prevalere Matteo Renzi, dovrà lavorare in questo senso e credo che ci siano tutte le condizioni per fare bene. L'affluenza di oggi ci dà grande forza. Anna Rita, a te. Grazie alla nostra Raffaella Calandra da Milano. Chiudiamo da Roma con Alessandra Schepisi. Alessandra. Sì, Anna Rita, qui è ancora attesa, si provano i microfoni, ma per il momento non si vedono esponenti del PD, la serata sarà comunque lunga, c'è comunque intanto il numero sull'affluenza che, come dire, viene ufficiosamente dato in una forchetta tra 1,8 e 2 e 1, 2 milioni e 100 mila, dunque quindi più o meno siamo su quella cifra. E infine possiamo dire che a Roma si sono svolte tutte regolarmente le operazioni di voto e a quanto si è appreso l'affluenza sarebbe comunque buona, i seggi nel centro della città hanno avuto un'affluenza maggiore e minore invece quelli delle periferie. Grazie ad Alessandra Schepisi, grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questo speciale, grazie in redazione ad Anna Marino e Anna Migliorati, in regia Paolo Corleoni. Con Anna Rita D'Ambrosio ci ritroviamo alle 21 con i nostri GR per tutti gli approfondimenti anche sulle primarie.